Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Una trattativa non stop di 5 giorni dopo mesi di incontri. 108 euro di aumento medio e un una tantum di 300 euro per più di 700.000 operatori. Sono questi i numeri del nuovo contratto nazionale dei lavoratori del trasporto merci, della logistica e delle spedizioni. L'intesa è stata raggiunta domenica scorsa, dopo 23 mesi dalla scadenza dell'ultimo accordo, ma dovrà essere ratificata entro il 1 febbraio, dopodiché dovrebbe restare in vigore fino al 31 dicembre 2019. Il documento introduce una serie di novità in linea con le trasformazioni che sta vivendo questo settore, come la possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata, norme più rigide in caso di assenteismo e una nuova classificazione per il personale viaggiante, prevedendo 8 profili lavorativi invece dei 3 precedenti. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E proprio in questi giorni, domenica scorsa, si è chiuso un importante capitolo di questo settore, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto da circa 23 mesi dopo una lunghissima trattativa, l'ultima fase addirittura durata 5 giorni interi. Domenica scorsa si è riusciti ad arrivare ad una conclusione o perlomeno un accordo di massima che adesso ormai, come da prassi, dovrà essere poi ratificato dalle varie associazioni e dai vari gruppi territoriali, sia su un fronte datoriale sia sul fronte sindacale. Per cercare di capire com'è andata, quali sono le novità importanti che riguardano questo settore, ma più in generale anche qual è l'andamento del settore dell'autotrasporto, abbiamo oggi due ospiti che sono Amedeo Genedani, presidente di Unatras, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. E Marco Odone, segretario nazionale di Will Trasporti, buon pomeriggio anche a lei. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Odone, cominciamo proprio da lei. Quali sono i punti caratteristici, diciamo gli highlights, come direbbero gli sportivi, legati a questo contratto? I punti fondamentali su un tavolo, che poi chiaramente diventano comuni all'interno del contratto collettivo, sono che da una parte quindi si è riuscito a definire bene tutto, quindi il percorso negli appalti, e limitandoli, vedendo anche quindi quali sono state le conseguenze forse di un malgoverno di questi anni, limitandoli a non andare avanti con i subappalti, dove siamo riusciti anche ad ottenere per i lavoratori una buona clausola sociale. Nel contempo anche lì si è parlato, quindi abbiamo modernizzato l'orario di lavoro per rispondere meglio alle imprese, quindi dandone più flessibilità. Sul tavolo in particolare invece dell'autotrasporto siamo riusciti a dare quindi sicuramente una maggiore professionalità, riuscendo quindi a capire anche dando flessibilità necessarie quindi al mondo dell'autotrasporto, e addirittura siamo arrivati anche a mettere in campo soprattutto per l'assunzione quindi di giovani, quindi un salario d'ingresso dove da poter contrastare il distacco e la somministrazione internazionale. E siamo riusciti anche a mettere giù alcune norme, come dire, che le associazioni datoriali ci chiedevano, mettevano sul piatto, sul fatto di limitare comportamenti a volte anche non corretti sulle giornate di malattie attaccate, diciamo, alle festività, dove soprattutto nel mondo dell'autotrasporto, ecco, si possono trovare i camion. Erano particolarmente pesanti, sì, infatti. Genedani, quindi appalti, flessibilità, salario di ingresso, ci sarà ovviamente un aumento economico, credo intorno al regime dei 100 euro circa, però sono tutti punti che in qualche modo chiedevano anche le associazioni datoriali. Sarà valutato dai nostri organi, come si vedrà la valutazione degli organi, sicuramente è molto innovativo, si chiedevano alcune cose importantissime che sono già state citate da Odone, sentivo, ma un'altra cosa importante per noi era la questione di poter avere il contratto a chiamata e non avere più il divieto come c'era prima, la discontinuità delle 47 ore per il personale viaggiante e anche addirittura la possibilità di spalmare la tredicesima e la quattordicesima nelle 12 mensilità, che sia chiaro, non togliere la tredicesima e la quattordicesima, ma spalmarla nelle 12 mensilità. Sicuramente sicuramente il salario d'ingresso, che è volto anche a portare a casa un risultato anche per i neopatentati che stiamo cercando di patentare con il progetto dell'albo degli autotrasportatori. Quindi la parte economica purtroppo segue sempre a questi negoziati. Speravamo di poter spalmare anche l'una tantum in una maggiore distanza, non concentrato nel 2018, per l'altro aumento dei 108 euro, comunque suddiviso in 4 rate, questo qua abbastanza spalmato nel tempo, e soprattutto con l'ultima rata che sarà soggetta a una verifica nel merito. Ecco, al di là dell'aspetto economico, che ovviamente contraddistingue, come ha ricordato giustamente lei, ogni rinnovo contrattuale, mi sembra quindi che i contenuti di questo rinnovo siano però importanti, perché si introduce flessibilità laddove in questo momento, ad esempio in Europa, c'è una concorrenza fortissima sul costo del lavoro, e quindi si cerca di contrastare questa concorrenza che arriva soprattutto dai paesi dell'est. Nella parte, diciamo, normativa ci sono questi elementi innovativi che ci possono dare un valore aggiunto anche per controbattere quello che era l'esigenza proprio della flessibilità nella parola stessa, e soprattutto certo, nella discontinuità delle 47 ore, che era una cosa importantissima. Poi voglio anche ricordare che c'è anche la possibilità di fare gli accordi di secondo livello che dovrebbero portare a casa un valore aggiunto sicuramente alle nostre imprese, siano artigiane che non artigiane. Certo. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che è la prima volta che tutte le associazioni di categoria che rappresentano il mondo del trasporto hanno firmato questo contratto, quindi anche questo è un punto molto positivo per il fatto che l'unione fa la forza, e spesso e volentieri riuscire ad arrivare tutti compatti a fare addirittura 5 giorni di trattativa 24 ore su 24 non è di tutti i giorni. Sì, tutti tranne le cooperative, ma so che anche al loro interno si sta discutendo sulla firma di questo contratto. Genedani, in realtà questa chiusura arriva a pochi giorni da un altro importante appuntamento, che è l'incontro che le associazioni di categoria hanno avuto con il governo, anche lì dopo diversi mesi di assenza, incontro in cui c'è stato un po' un allineamento generale. Sicuramente anche questa è stata una positività, sembra che si chiuda il 2017 con delle positività, speriamo che veramente siano positività, come dice la parola, ma il governo ci ha garantito il pacchetto autotrasporto integro, infatti ha dato un segnale subito nell'immediatezza, diciamo, dell'incontro per recuperare quel famoso emendamento che ci toglieva 50 milioni di euro di risorse, soprattutto dal punto di vista personale del mondo dell'artigianato, di chi rappresento anche come Confartigianato Trasporti, il fatto che c'è la garanzia dei 51 euro delle spese non documentate, che era la cosa più critica. Quindi anche da parte del governo c'è stata una risposta importante su questo pacchetto. Certo, e tra le altre cose, altra notizia importante, proprio pochi giorni fa a Bruxelles il ministro Delrio ha ribadito queste posizioni nell'ambito del Consiglio europeo dei ministri dei trasporti, quindi l'Italia è intenzionata a portare avanti una battaglia soprattutto sul tema del cabotaggio, che dovrebbe in qualche modo bloccare l'invasione delle imprese di autotrasporto dell'est Europa. Sicuramente anche questa è un'altra positività, il ministro Delrio ci aveva promesso questa posizione, ha mantenuto ciò che ha promesso, sicuramente la posizione portata avanti in questo modo dovrebbe avere un risvolto importante, soprattutto perché una parte dei paesi si sta contrapponendo all'altra parte degli altri ovviamente paesi dell'est, sicuramente ci vuole sempre un impegno maggiore anche da parte del governo, anche a livello nazionale, per fare un po' più controlli su questi vettori dell'est che viaggiano in Italia, quelli che sono definiti dalla stampa a chilometro illimitato. A chilometro illimitato. Odone, siamo in chiusura, quanto ha influito questo tema, questo del cabotaggio estero, del dumping che viene spesso effettuato dai paesi dell'est sul rinnovo contrattuale? Ha influito molto, e noi abbiamo utilizzato, in attesa che le istituzioni, quindi a livello legislativo, intervengano, il contratto per riuscire a dare la prima risposta. Difatti il fatto di mettere anche questa condizione, quindi per i neoassunti, neopatentati, è proprio per contrastare a livello di contratto collettivo, diciamo, questo fenomeno che è molto grave. Io credo che, come Genedani richiamava, il fatto che ci siamo messi 5 giorni, tutte le parti intorno al tavolo, perché abbiamo capito che ce n'era